Chissà quali declamazioni impietosite avrei suscitate in Françoise se m'avesse visto piangere. Ebbi cura di non palesarmi. Se non l'avessi fatto, avrei avuto la sua simpatia. In compenso, le diedi la mia. Non ci mettiamo mai abbastanza nel cuore di queste povere domestiche che non possono vederci piangere, come se piangere ci facesse male. O forse è a loro che fa male, perché Françoise, quando ero piccolo, m'aveva detto: «Non piangete così. Non mi piace vedervi piangere così». Non amiamo le grandi frasi, gli attestati. Abbiamo torto. In questo modo chiudiamo il nostro cuore al pathos delle campagne, alla leggenda che la povera serva licenziata, forse ingiustamente, per furto, tutta pallida e di colpo più umile, come se essere accusati fosse già un delitto, ci racconta invocando l'onestà del padre, i principi morali della madre, i consigli della nonna. Certo, le domestiche che non possono sopportare le nostre lacrime sono le stesse che ci faranno prendere, senza scrupoli di coscienza, una polmonite perché la cameriera del piano di sotto ama le correnti d'aria e non sarebbe gentile eliminarle. Infatti, bisogna che gli stessi che hanno ragione, come Françoise, abbiano anche torto per fare della giustizia una cosa impossibile. Persino gli umili piaceri delle serve provocano o il rifiuto o lo scherno dei padroni. Perché si tratta in genere di minuzie, ma scioccamente sentimentali, antigeniche. Il che le autorizza a protestare: «Come? Non chiedo che questo in tutto l'anno e non me lo concedono». Eppure i padroni concederebbero ben altro, a patto solo che non fosse stupido e rischioso per le serve stesse o per loro. Certo, all'umiltà della povera domestica che, tremante e pronta a confessare ciò che non ha commesso, sussurra: «Me ne vado anche stasera, se necessario». Non si può resistere. Ma bisogna essere capaci di non restare insensibili, malgrado la banalità solenne e minacciosa dei suoi discorsi, l'eredità materna e la dignità del podere davanti a una vecchia cuoca che si fa bella d'una vita e d'una ascendenza onorate, che tiene la scopa come fosse uno scettro, che fa scivolare la sua parte verso il tragico, inframmezzandola di pianti, ergendosi maestosamente. Quel giorno ricordai o immaginai scene siffatte. Le misi in correlazione con la nostra vecchia domestica ed allora, nonostante tutto il male che fu capace di fare ad Albertine, amai Françoise d'un affetto intermittente, è vero, ma del genere più forte, quello che ha come base la pietà. Soffrii per l'intera giornata davanti alla fotografia della nonna. Mi torturava. Meno, tuttavia, della visita serale del direttore. Mentre gli parlavo della nonna e lui mi rinnovava le sue condoglianze, lo sentii dire, perché prediligeva il ricorso ai termini di cui sbagliava la pronuncia: «Eh sì, il giorno in cui la vostra signora nonna aveva avuto quella sincope, avrei voluto avvertirvi. Per via della clientela, sapete, la ditta avrebbe potuto risentirne. Sarebbe stato meglio che partisse la sera stessa, ma lei mi supplicò di tacere e mi promise che non avrebbe più avuto sincopi o comunque alla prima sarebbe partita. Il responsabile del piano però mi ha reso conto che ne aveva avuta un'altra, ma per bacco, eravate vecchi clienti, clienti che cercavamo da accontentare, e dal momento che non ci sono state lamentele...» Così la nonna aveva avuto degli attacchi e me li aveva tenuti nascosti. Nel momento forse in cui io ero meno gentile con lei e lei, sentendosi male, era costretta a fare ben attenzione a essere di buon umore per non irritarmi e a fingersi in buona salute per non essere messa alla porta dell'albergo. Sincope. È una parola che, pronunciata così, non avrei mai immaginata che forse applicata ad altri mi sarebbe parsa ridicola, ma che nella sua strana novità sonora, simile a quella di un'originale dissonanza, ebbe a lungo il potere di risvegliare in me le sensazioni più dolorose. Il giorno dopo, su preghiera della mamma, andai a stendermi un po' sulla sabbia, o meglio fra le dune, laddove ci si può nascondere dietro le loro ondulazioni e dove sapevo che Albertina e le sue amiche non m'avrebbero trovato. Le mie palpebre, abbassate, non lasciavano filtrare che una sola luce, quella tutta rosa, delle pareti interne degli occhi. Poi si chiusero del tutto. Allora mi apparve la nonna, seduta in una poltrona. Così debole, sembrava che vivesse meno di chiunque altro. Tuttavia la sentivo respirare. A tratti, un cenno mostrava come avesse capito quello che dicevamo, mio padre e io. Ma per quanto la baciassi, non riuscivo a destare uno sguardo affettuoso nei suoi occhi, un po' di colore sulle sue guance. Assente da se stessa, sembrava che non mi volesse bene, che non mi conoscesse, forse che non mi vedesse neppure. Non riuscivo a penetrare il segreto della sua indifferenza, della sua prostrazione, del suo scontento silenzioso. Presi da parte mio padre. «Eppure lo vedi», gli dissi, «non si può negarlo. Ha afferrato esattamente ogni parola. È l'illusione completa della vita. Vorrei che ci fosse qui tuo cugino, quello che sostiene che i morti non vivono. È più di un anno che è morta, e in fin dei conti è sempre viva. Ma perché non vuole baciarmi? Guarda come le cade la testa, poverina. Ma vorrebbe tornare ai Champs-Élysées questo pomeriggio. È una pazzia. Sei davvero convinto che potrebbe farle male, che potrebbe morire di più? Non è possibile che abbia smesso di volermi bene. Anche se continuerò a baciarla, non mi sorriderà mai più. Che vuoi farci? I morti sono i morti». Alcuni giorni dopo, la fotografia scattata da Saint-Loup mi dava già dolcezza a guardarla. Non mi ridestava più il ricordo di quanto m'aveva detto Françoise perché, non essendone stato più abbandonato, mi c'ero ormai assuefatto. Ma rispetto a come immaginavo le sue condizioni di quel giorno, così gravi, così dolorose, la fotografia, approfittando ancora delle astuzie messe in atto dalla nonna e che riuscivano a ingannarmi persino adesso, che m'erano state svelate, me la mostrava così elegante, così spensierata sotto il cappello che le nascondeva un po' il viso, da farmela vedere meno infelice e meno malata di quanto non avessi supposto. E tuttavia, poiché le sue guance avevano, a sua insaputa, una loro propria espressione, un che di plumbeo, di stravolto, come lo sguardo d'una bestia che si sentisse già scelta e designata, la nonna aveva un aspetto da condannata a morte, un atteggiamento involontariamente cupo, inconsciamente tragico, che a me sfuggiva, ma in forza del quale la mamma non poteva assolutamente guardare quella fotografia che le sembrava non tanto una fotografia di sua madre, quanto della malattia di lei, dell'offesa che essa recava al viso brutalmente oltraggiato della nonna. Poi un giorno mi decisi a far avvisare Albertin che presto l'avrei ricevuta. Infatti, un mattino di gran caldo prematuro, i mille gridi dei bambini che giocavano, dei bagnanti che scherzavano fra loro, dei venditori di giornali, m'avevano descritto a tratti di fuoco, a faville intrecciate, la spiaggia ardente che le piccole onde venivano ad aspergere a una della loro freschezza. Ed era cominciato allora il concerto sinfonico mischiato allo sciabordio dell'acqua, con i violini che vibravano come uno sciame d'api perdutosi sul mare. Immediatamente avevo desiderato di risentire la risata di Albertin, di rivedere le sue amiche, quelle fanciulle stagliate contro i flutti che erano rimaste nel mio ricordo, l'incanto inseparabile, la flora caratteristica di Balbec. E avevo deciso di mandare ad Albertin, tramite Françoise, un messaggio per la settimana successiva, mentre il mare, crescendo dolcemente, ad ogni frangersi d'onda, ricopriva interamente di colate di cristallo la melodia, le cui frasi sembravano staccate le une dalle altre come quegli angeli musicanti che, sul fastigio delle cattedrali italiane, s'alzano fra creste di porfido azzurro e di diaspro spumeggiante. Ma il giorno in cui venne Albertin, il tempo s'era di nuovo guastato e rinfrescato, e d'altronde non ebbi occasione di udire la sua risata. Era di pessimo umore. «Balbec è una barba quest'anno», mi disse. «Cercherò di restare il meno possibile. Sono qui da Pasqua, sapete? È più di un mese. Non c'è nessuno. Se credete che sia allegro». Malgrado la pioggia caduta da poco e il cielo che cambiava di continuo, dopo aver accompagnato la mia amica fino a Épreville, già che Albertin faceva, secondo il suo modo d'esprimersi, la spola fra quella piccola spiaggia dove era la villa di Madame Bonton e Ancreville, dove era stata presa a pensione dai genitori di Rosemont, andai a passeggiare da solo verso la strada maestra percorsa, al tempo delle passeggiate con la nonna, dalla carrozza di Madame de Villeparisis. Pozzanghere che il sole, tornato a brillare, non aveva ancora prosciugate, riducevano il terreno a un autentico acquitrino, e io ripensavo alla nonna che non poteva fare due passi senza inzaccherarsi. Ma come raggiunsi la strada, rimasi abbagliato. Laddove d'agosto con la nonna non avevo visto che le foglie e, per così dire, la positura dei meli, essi si stendevano ora a perdita d'occhio in piena fioritura, incredibilmente sfarzosi, con i piedi nel fango e l'abito da ballo, senza prendere la minima precauzione per non sciupare il più splendido raso che mai si fosse visto e che scintillava roseo ai raggi del sole. Il lontano orizzonte marino forniva ai meli uno sfondo da stampa giapponese. Se alzavo la testa a guardare il cielo tra i fiori, che conferivano al suo azzurro rasserenato una tonalità quasi violenta, sembrava che si scostassero per mostrare la profondità di quel paradiso. Al di sotto dell'azzurro, una brezza leggera ma fredda faceva fremere appena i mazzolini rosseggianti. Celesti cincerelle venivano a posarsi sui rami e saltellavano tra i fiori indulgenti, come se tutta quella vivente bellezza fosse stata la creazione artificiale di un appassionato d'esotismo e di colori. E invece, se commuoveva fino alle lacrime, era perché, sebbene si fosse spinta tanto oltre nei suoi effetti d'arte raffinata, si sentiva che era naturale, che quei meli erano lì, in aperta campagna, come contadini su una strada maestra di Francia. Poi i raggi del sole si trasformarono all'improvviso in fili di pioggia che striarono tutto l'orizzonte, imprigionando l'esercito dei meli nella loro rete grigia. Ma i meli continuavano ad ergersi nel vento che s'era fatto gelido, sotto l'acqua che cadeva a scroscio, con la loro rosea, fiorita bellezza. Era una giornata di primavera.